Non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah, come stai? Sto molto bene, stavo pensando che al prossimo carnevale, nel caso lo potessimo fare congiunti e non tu? Disgiunti. Sì? Eh sì, esatto, ci vestiamo tutti da Village People e cantiamo questa canzone. INPS, cioè INPS. Certo. Perché l'INPS, allora, cosa ha fatto l'INPS? Ha comunicato che faranno un po' prima con i pagamenti della cassa integrazione, mi sembra di capire. Ma io mi voglio augurare che sia così. Loro attribuiscono i ritardi in corso ancora una volta a problematiche di comunicazione dei parametri bancari da parte dei diretti interessati. Ma signor INPS, signor Pasquale Tridico, io dico anche che qua si stanno lamentando in tanti che la cassa integrazione non arriva, ma è possibile che tutti abbiamo dato l'IBAN sbagliato? Comunque atteniamoci al comunicato stampa diffuso stamattina, Mauro, prego. Allora, l'INPS ci ha fatto sapere la INPS, anzi se vogliamo dirla all'americana, che mi sembra faccia anche più tecnologico e magari dà anche una spinta, come dire, alla velocizzazione. Allora, ci ha fatto sapere una spintarella gentile come quella di Richard Thaler, del premio Nobel per l'economia, sì. Ci hanno fatto sapere che le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto, c'è-à-dir cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga, cassa integrazione speciale agli operai agricoli, saranno pagate con bonifico domiciliato presso le poste se l'IBAN che è stato comunicato con la domanda non è esatto. Lo ha deciso l'istituto così da velocizzare i pagamenti della cassa integrazione, appunto, di tutti questi prestazioni a pagamento diretto, CIGO, la cassa in deroga e così via, quando appunto l'IBAN, che in questo caso viene indicato dal datore di lavoro, nella domanda non è corretto o il codice fiscale del beneficiario non corrisponde a quello del titolare del conto corrente. Questo spiega l'INPS, determina degli errori che, questi sono errori che determinano dei ritardi e quindi devono poi comportare la necessità di variare la domanda già presentata. Insomma, l'INPS ha deciso di passare allora al bonifico domiciliato presso le poste italiane. Cosa succederà? Che il lavoratore riceverà un SMS di notifica e poi la comunicazione inviata da Postel al suo indirizzo di residenza e domicilio. Anche qui, quando io sento queste cose di ricezione di SMS eccetera, attenzione ai messaggi fasulli, ai phishing, cerchiamo di non cadere nelle truffe. Un SMS posso aggiungere una cosa, Mauro? No, perché la questione dell'SMS è pure importante, non li guardiamo neanche più adesso, comunichiamo tutti con WhatsApp, con altre modalità. L'SMS tradizionale, che è spesso anche a pagamento, lo ricevono pochissime persone, quindi signor INPS, signor Tridico, vogliamo revisionare anche le modalità di comunicazione con le persone? Chiusa parentesi, stamattina sono io un po' l'impostazione editoriale. Non so, hai letto qualche circolare dell'INPS che ti ha disturbato? Io ieri avevo letto questa circolare delle entrate che mi aveva un po' disturbato. Io voglio dire anche una cosina, adesso non vorrei rinfocolare ulteriormente il tuo disappunto, ma noi continuiamo comunque a ricevere messaggi di ascoltatori che hanno presentato la domanda per i 600 euro addirittura il primo aprile, qualcuno nelle prime ore del primo aprile, e non hanno ancora visto quello che una volta una pubblicità di quando ero piccolo chiamava il benefico rossore, cioè il benefico rossore nel conto corrente. Insomma, non hanno ricevuto. Non so, sarà tutto a posto, non sarà successo niente, noi ci auguriamo che sia così, però se volete segnalarcelo 349-238-6666, vediamo di così stimolare una qualche ulteriore verifica, non per fare una cosa da sportello, naturalmente a sportello reclami, proprio per capire se tutto sta procedendo. Non possiamo fare una cosa personalizzata, naturalmente, Deborah, ma capiamo se tutto sta procedendo secondo i ritmi normali. Bene, tutto ciò premesso, di che parliamo oggi? Due argomenti. Allora, nella prima parte torneremo a parlare di un grande cavallo di battaglia di Due di Denari, che è l'educazione finanziaria, perché ieri a Roma è stata presentata la famosa indagine PISA, che è quella che in sostanza su iniziativa dell'OCSE, questo organismo appunto di Parigi molto importante, sostanzialmente va a fare una ricognizione tra le competenze finanziarie delle giovani generazioni. Quindi ieri con una cerimonia come sempre online, quindi con una conferenza online, sono stati presentati i risultati dell'edizione di quest'anno, che ancora una volta ci testimoniano come l'Italia sia molto indietro in questa graduatoria e come ci sia molto lavoro da fare fra i ragazzi per aumentare le loro competenze finanziarie. E ci faremo raccontare tutto da un dirigente dell'Imbalzi, che è questo organismo, questo istituto che sostanzialmente effettua la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nel nostro paese. E insomma, abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. Come paese siamo ancora molto indietro, soprattutto c'è ancora, e questo lo dico ahimè anche parlando proprio alle donne che ci ascoltano, una grande differenza di genere sia sul grado di interesse che sul grado di competenze che le donne hanno rispetto agli uomini su questi argomenti. Nella seconda parte del programma invece torneremo anche in questo caso su un altro tema che stanno continuando a sollecitarci molti ascoltatori, Mauro, perché parliamo di viaggi che sono stati annullati e cancellati, e in molti non sono in grado di poter dire se sono viaggi rinviati, perché non sappiamo se potremo fare regolarmente le nostre vacanze prossimamente, e allora c'è ancora molta confusione sui termini di rimborso che ci spettano, e quindi torneremo di nuovo a chiarire le idee agli amici che ci ascoltano e che ci possono scrivere all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. E adesso che si fa? E adesso facciamo il giornale radio del risparmio. Già, guarda, dall'altra parte del vetro vedo l'austero Filippo Aureggi, che tutto governa questa mattina e tutto vede dal suo banco di regia, e poi dietro di lui scorgo una spumeggiante Laura Faggin, che sapientemente in coppia con il nostro Marco Lombardo assistono sia te sia il sottoscritto. E allora, tutto ciò premesso, cara Debora, giornale radio del risparmio. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Andate sul sito di Radio 24, non adesso, fatelo anche dopo. Andate su www.radio24.it. Tra le iniziative speciali, le trovate già nella home page, nella pagina iniziale, insomma, appena digitate l'indirizzo, trovate Homo Covid con l'H, latino. Homo Covid, che è il prontuario per i cittadini ai tempi del Covid-19, cioè del coronavirus. Perché? È un'iniziativa che è partita ieri, un'iniziativa che è partita per merito di Debora Rosciani, e che forse di tutta la redazione. Merito di Debora Rosciani. Se non avessi una redazione che mi supporta, non potrei fare un bel niente, è ovvio. Che comunque si è messa a disposizione insieme a consumerismo.it per dare delle indicazioni operative basate appunto su tutte le domande che sono arrivate alle associazioni dei consumatori in queste settimane di chiusura, quarantena, chiamatela come volete. Insomma, sono tante le questioni, i mutui, le bollette, proprio questioni veramente di tutti i giorni, e per queste questioni radunate argomento per argomento, che so, bollette, mutui ad esempio, trovate le indicazioni che verranno ogni giorno arricchite proprio sul sito di Radio 24 in questa iniziativa Homo Covid con l'H davanti. Ho detto tutto giusto, Debora? Ero un po' emozionato. Hai detto tutto. No, ti ringrazio del supporto. Naturalmente non sarò io a rispondere a tutte le persone che avranno il piacere e il bisogno di scriverci, ma come sempre grazie a Radio 24, al Sole 24 Ore, agli amici di consumerismo.it abbiamo uno staff di professionisti, di esperti che ci aiutano chiaramente a rispondere correttamente a tutti i quesiti. Io smisto semplicemente le tantissime richieste che ci stanno arrivando, ci fa molto piacere, per cui abbiamo ritenuto utile rendere disponibile appunto a tutti i nostri nostri follower questo prontuario. Peraltro è stata anche molto divertente questa battuta che ha fatto l'amico Luigi Gabriele, che ha ideato con noi questo sportello. Speriamo che da Homo Covid si passi ad essere Homo Sapiens, e quindi chiaramente, siccome abbiamo bisogno di strumenti di conoscenza per navigare in questo momento molto difficile, l'obiettivo è stato un po' anche questo, Mauro. Intanto siamo tutti Homo Scribens, verrebbe da dire. Potete scrivere appunto per porre dei quesiti a questa nuova iniziativa di Radio 24 e di consumerismo.it. potete scrivere a 2didenari@radio24.it, oppure abbiamo anche un altro indirizzo email: assistenza@consumerismo.it. E tutto ciò in realtà premesso, è redazione, sì, sì. Redazione consumerismo.it. Oh, preferiamo questo indirizzo, non importa, vanno bene entrambi. Redazione forse è un po' più facile di assistenza. Bene. Allora, domani so che anche sul Sole 24 e su Plus però ci sono delle cose interessanti. Facciamo un po' questa sinergia di gruppo, perché i temi che domani affronta Plus 24 sono temi anche molto nostri, Mauro. È così, perché effettivamente in molti ci state scrivendo, chiedendo. Anche ieri, quando parlavamo di investire in formati, alcuni ci chiedevano: ma è il momento magari di puntare sul petrolio? Allora, domani in edicola con il Sole 24 Ore Plus, che è il nostro settimanale dedicato al risparmio e ai risparmiatori, affronta proprio il tema degli investimenti nel petrolio visti dalla parte nostra, dei piccoli risparmiatori. Vi do un'anticipazione, poi tutti i dettagli li trovate naturalmente domani sulle pagine di Plus in edicola, ma anche, se volete, se vi abbonate, anche visibile online dal nostro sito www.ilsole24ore.com. Ebbene, vi do questa anticipazione. Attenzione, come vi ha già detto diverse volte anche Debora, sono strumenti molto, ma molto, ma molto rischiosi. Si può guadagnare, certamente, si può anche perdere parecchio. Quindi sappiatevi regolare, diceva sempre la mia mamma quando facevo qualche marachella. Sappiti regolare. Debora. Sì, poi io questa raccomandazione la rivolgo anche ai consulenti finanziari che mettono in testa ai piccoli risparmiatori che in questo momento c'è l'opportunità di investimento nel petrolio, quindi sappiti regolare. Lo dico anche al consulente finanziario modello in ascolto: cortesemente cercate di dare delle raccomandazioni di investimento in questo periodo che abbiano un po' di criterio, non che siano senza criterio, secondo noi, come questa. Allora, volevo raccontarti invece quello che sta facendo l'Antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, che ha avviato un'indagine preistruttoria. Questa notizia ce l'ha fatta conoscere proprio qualche ora fa Giovanni Calabrò, che è il capo della direzione consumatori di questa autorità. L'autorità appunto ha avviato questa indagine inviando a sua volta delle richieste di informazioni a numerosi operatori della grande distribuzione per acquisire dei dati sull'andamento di prezzi di vendita al dettaglio e prezzi di acquisto all'ingrosso di generi alimentari di prima necessità, detergenti, disinfettanti e guanti, per individuare eventuali fenomeni di sfruttamento dell'emergenza sanitaria che sarebbero appunto alla base di un aumento dei prezzi che non sarebbe appunto eccessivamente giustificato. Capiamo che in questo momento c'è una grandissima richiesta di questi prodotti, ma forse l'aumento dei prezzi che si sta riscontrando non è esattamente giustificato dal boom della domanda, e quindi l'auspicio è che la grande distribuzione si faccia anche un po' carico di quello che avviene chiaramente nella filiera della distribuzione, quindi che riesca un pochino anche a calmierare questi prezzi, perché dobbiamo per forza comprarli questi prodotti, non è esattamente una come dire, una nostra volontà. Allora, le richieste di informazioni che sono state attivate dall'autorità, dall'antitrust, riguardano 3.800 punti vendita, soprattutto dell'Italia centrale e meridionale, pari a circa l'85% del totale censito da Nielsen nelle province interessate. Nello specifico, dalle analisi preliminari svolte dall'autorità, a marzo 2020 sarebbero emersi per i prodotti alimentari aumenti dei prezzi rispetto a quelli correnti nei mesi precedenti, differenziati appunto a livello provinciale. Per cui attenzione, mi raccomando, e monitoreremo anche questo fenomeno con grande attenzione. Allora, abbiamo già in collegamento con noi, e lo saluto rapidissimamente, il dottor Roberto Ricci, dirigente di ricerca in Valsi, rappresentante per l'Italia nel Governing Board dell'OCSE per quanto riguarda appunto queste indagini PISA. Buongiorno, benvenuto a 2 di Denari, dottor Ricci. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, un attimo di pazienza perché noi mandiamo la nostra rubrica Dillo a due di denari, la rubrica delle 4D, e poi passiamo subito a ragionare con lei di educazione, o verrebbe da dire, visti un po' i dati, mala educazione finanziaria di noi italiani. Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Scusate, ma invece di continuare a buttar via soldi in mascherine, ma perché non ve le fate voi? In tessuto, ve ne fate un paio, tre, la usate e poi la lavate, o no? Invece di continuare a buttare plastica in giro a destra manca. Ci sono guanti in giro dappertutto, uno schifo. Cestini pieni di guanti di plastica, le strade piene. Cioè, ma non si pensa a sta roba qua? Buongiorno, chiamo da Castel San Giovanni, giro molto per lavoro, non mi sono mai fermato. Però per piacere vi chiedo, fate una campagna, degli appelli, perché sto vedendo sempre più mascherine buttate per strada, guanti dappertutto, e se va avanti così, già eravamo inquinatori prima, lo diventeremo ancora di più. Per piacere fate delle campagne, degli appelli, perché qui la gente si sta iniziando a comportare sempre peggio. Grazie. A proposito di maleducazione, Deborah, verrebbe da dire, no, qui c'è, sì, tutto, infatti. Sappi che qui in sede l'avrai visto e lo vedrai ancora lunedì quando sarai qui in studio, ci sono, sì, degli appositi contenitori per raccolte anche separate, quindi i guanti vanno da una parte, la carta, sì, va, sì, da un'altra, la plastica eccetera eccetera, quindi abbiamo attrezzato il tutto al meglio. Prego, Deborah. Bene, dottor Ricci, allora buongiorno e grazie di essere con noi. Siete reduci dalla presentazione avvenuta ieri a Roma della famosa indagine PISA. L'acronimo di Program for International Student Assessment è un'indagine internazionale promossa dall'OCSE con cadenza triennale. Professor Ricci, perché ci riguarda direttamente anche questa indagine, nel senso come abbiamo fatto il monitoraggio anche fra la popolazione italiana di studenti e soprattutto che cosa abbiamo scoperto quest'anno? Chiaramente ricordando che noi vogliamo raccontare questa indagine perché è molto utile anche ai fini del lavoro che facciamo di educazione finanziaria, spesso anche con il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, con il Ministero dell'Economia, con tante altre nostre iniziative, e quindi dobbiamo capire un po' perché tra le giovani generazioni c'è questo distacco rispetto a questi argomenti. Dottor Ricci, l'ho chiamata professore, ma lei, rappresentando in qualche maniera anche il mondo della scuola, così mi perdonerà. Prego. Certamente, grazie, buongiorno a tutti, anzi un onore. Sì, ieri abbiamo presentato i dati di una parte specifica di questa ricerca, la ricerca cosiddetta PISA, denominata PISA. È importante per l'Italia parteciparvi come fa sin dall'inizio, quindi dal 2000, poiché è una ricerca che permette di confrontare oltre 80 paesi su alcune competenze chiave, tra le quali dal 2012 anche la cosiddetta competenza finanziaria di base, aggiungo io, è stata inserita come punto di osservazione. Chi riguarda? Gli studenti che hanno 15 anni, quindi per noi grosso modo gli allievi che frequentano la seconda superiore. Perché è così importante? Poiché si tratta delle competenze finanziarie di base che a livello internazionale, a livello generale, si ritiene siano le competenze di base che i futuri cittadini dovranno avere per muoversi consapevolmente nel mondo che ci circonda. I risultati che emergono da questa ricerca per i nostri studenti italiani, la ricerca è svolta su un campione ed è curata dall'Invalsi, non sono del tutto soddisfacenti. E una quota non trascurabile dei nostri studenti, stiamo parlando di circa un quarto dei nostri, il 25% dei nostri studenti, non ha quelle competenze minime che si ritengono necessarie per leggere il mondo che ci circonda rispetto ad aspetti finanziari. Però parliamo di competenze generali, non parliamo di conoscenze tecniche che dovrebbe avere, non so, un esperto, ma quelle competenze che un cittadino, quello di cui voi parlate sempre, deve avere anche per avere giudizio nel momento in cui deve scegliere tra un'alternativa ed un'altra. Quindi la ricerca cerca di mettere in evidenza se i nostri ragazzi hanno queste competenze, soprattutto di valutare scenari di informazione. mi verrebbe da dire, leggendo le domande e vedendo come vengono posti i risultati, se tutta la popolazione italiana avesse quelle competenze che vengono testate mediante questa ricerca, probabilmente tutto quello che noi abbiamo letto e leggiamo sui giornali, con anche implicazioni sulla vita di ciascuno di noi piuttosto serie, probabilmente non sarebbero mai successe. Ma io vedo, Deborah, mi intrometto perché stavo appunto curiosando tra i dati che ci hanno presentato ieri e in parte anche anticipato, ma ci sono ancora peraltro delle differenze che non mi spiego, ad esempio di genere, cioè non so, le ragazze risultano meno preparate, ma perché? Oltretutto mi pare che ormai questo tipo di così confinamento delle ragazze in altre attività e loro esclusione dall'economia sia una cosa davvero appartenente ai secoli passati, o no? Evidentemente mi sbaglio io, ho una percezione scorretta. Probabilmente, come posso dire, abbiamo una percezione del mondo che ci circonda, diciamo del nostro circuito, come posso dire. Se parliamo invece in termini generali, purtroppo il problema è ancora molto forte, c'è una discriminazione di genere considerevole, una differenza di genere considerevole a svantaggio delle ragazze. Non ci dobbiamo nascondere che ci sono anche fattori culturali. L'atteggiamento generale, per esempio in Italia, rispetto alle questioni del denaro e alle questioni finanziarie è molto diversa rispetto ai paesi anglosassoni, dove per tradizione, per abitudine, per cultura, l'abitudine a parlare di questi temi è molto maggiore. E le nostre ragazze, le nostre studentesse, purtroppo a livello generale mostrano delle competenze finanziarie sensibilmente meno soddisfacenti di quelle dei loro coetanei di maschi. E questo ci deve portare a pensare come a volte le differenze, mi permetto di dire discriminazioni, perché nei fatti vuol dire questo, sono molto più sottili e profonde e ahimè meno visibili di quello che noi crederemmo. Questi dati ci confermano, perché purtroppo questo emerge già da diversi anni e l'Italia è uno dei pochi paesi in cui questo problema si pone per la competenza finanziaria. Dicevo, queste differenze sono piuttosto profonde. Dottor Ricci, quali sono le fonti di informazione finanziaria preferite dai ragazzi? Perché anche questo è un punto interessante che si rileva dall'indagine. Peraltro leggo che, Mauro, 6 studenti su 10 cercano informazioni di questo tipo in TV ma anche in radio. Chissà in quanti ci ascoltano, chiaramente andando in onda in un orario un po' poco felice per quello che riguarda i ragazzi, perché auspichiamo che a quest'ora, in questi giorni magari no, viviamo una condizione straordinaria, ma che siano a scuola. Per il resto, c'è anche podcast, l'altro tema c'è sempre il podcast, Deborah, e anche siamo sui social, su Facebook eccetera. Scusa, prego. E poi ecco il tema della famiglia, quanto si discute di questi argomenti in famiglia, perché so che avete monitorato anche questo aspetto con attenzione. Sì, la famiglia ha un ruolo fondamentale, perché percentuali altissime di studenti, maschi e femmine, più i maschi che le femmine, assumono, ottengono le informazioni sugli aspetti di competenza finanziaria principalmente dalla famiglia e ancora poco dalla scuola. E questo apre un tema molto importante. Uno, gli aspetti culturali generali della famiglia, quindi quanto è importante parlarne anche in famiglia, poiché ad oggi costituisce la fonte di informazione principale per i giovani. Ma in seconda battuta, non in termini di importanza, quanto è importante che la scuola si faccia carico di questi temi. Oltretutto, non si sta dicendo che serve una materia ad hoc, perché non è questo. Se andiamo a vedere le domande che vengono poste in questo tipo di ricerca, sono assolutamente trasversali, sono competenze che troviamo almeno teoricamente presenti nelle indicazioni nazionali, quelle che un tempo chiamavamo programmi, e di tutte le materie. Quindi c'è ampio spazio. Inoltre, voglio dire, la coerenza con quella che viene definita, è stata definita recentemente, rivisitata l'educazione civica, potrebbero trovare un ampio spazio in questo settore. Quindi la scuola potrebbe anche in questo caso fare la differenza, in molti casi lo fa, però ancora molto c'è da fare. Io vorrei in chiusura, Deborah, rispondere, sì, replicare in qualche modo a un ascoltatore che ci ha scritto via WhatsApp. Tra poco poi parleremo anche di viaggi, già avete cominciato a chiedercelo. Ma vorrei appunto rispondere perché un ascoltatore dice: ma magari a queste ragazze che sono state interpellate non interessa la finanza. Allora, non stiamo parlando di finanza, cioè non stiamo parlando di ETF o contratti derivati, stiamo parlando della capire la convenienza tra scegliere, che so, un piano per il proprio telefono cellulare a canone fisso, oppure con una ricarica, oppure con un'altra formula ancora. Stiamo parlando del dare a uno sconosciuto i dati della propria carta di credito, stiamo parlando di acquistare online in sicurezza. Quindi sono cose, mi verrebbe da dire, perdoni dottor Ricci, non voglio assolutamente sminuire il vostro lavoro, sono cose banali che serve conoscere, mi pare di capire. Dottor Ricci. Guardi, se mi posso permettere, le definirei basilari, nel senso che tutti noi dobbiamo averle. E uno degli aspetti positivi di questa ricerca, delle ricerche di questo tipo che Invalsi conduce, è che cerca quantomeno di quantificare la disponibilità per tutti di queste competenze fondamentali. Certamente questo è un aspetto importante. Rispondendo all'ascoltatore, l'indagine è condotta su campioni rigorosi, quindi non è che abbiamo intervistato alcune ragazze così in modo estemporaneo, ma i campioni passano oltretutto ad un vaglio nazionale ed internazionale, e oltretutto l'Invalsi è parte del SISTAN, cioè il Sistema Statistico Nazionale, quindi il campionamento è fatto in modo estremamente rigoroso, quindi possiamo ragionevolmente dire che quei risultati rappresentano molto bene le nostre allieve, le nostre studentesse di 15 anni. Tra Grazie. L'altro, Mauro, stavo pensando che proprio anche l'osservazione dell'ascoltatore ci lascia capire come sia proprio un po' confuso l'approccio verso questo argomento. Educazione finanziaria per molti è percepita come avere gli insegnamenti sugli strumenti finanziari, invece parliamo di una tematica molto più ampia, una gamma molto più ampia di argomenti, e noi ci ritorneremo prossimamente di nuovo, magari con Anna Maria Lusardi, che è ancora a Washington in lockdown anche lei, ma che peraltro per il sito quello che conta.gov.it, il sito dell'educazione finanziaria, ha fatto partire proprio in questi giorni un'altra iniziativa molto carina. Anna Maria risponde dalla scrivania, una cosa del genere. Adesso la andiamo a cercare, magari la facciamo circolare anche sui nostri social, perché è molto interessante. Allora, con un po' di ritardo, ma ci scuserà soprattutto Deborah Rosciani, salutiamo il dottor Roberto Ricci, dirigente di ricerca Invalsi, rappresentante per l'Italia nel Governing Board dell'OCSE per quanto riguarda Pisa, e a questo punto andiamo ad ascoltare le borse. Vabbè, bravi, bravi, grande. Due di denari. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare. Devo dire, Deborah, allora, la sentirei per intero, eccoci, questa canzone. Ecco perché non iniziavi mai a parlare. Io ero qua, dico, si è interrotto il collegamento, e invece no, te la stavi godendo. Volevo sentirne ancora un pezzo, mi scuso con il nostro ospite soprattutto. Hai fatto bene. Gabriele Milani, presidente della Federazione Turismo Organizzato, buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Mauro, io ti ringrazio tutte le volte di promuovermi sul campo a presidente, ma sono direttore di FTO, Federazione Turismo Organizzato. Ecco, ma ho già fatto questo errore, Gabriele, la volta scorsa. No, ma noi in questi giorni abbiamo la maledizione delle cariche. Secondo me c'è qualche folletto che di notte va a correggere le nostre cariche che mettiamo ai nostri ospiti, perché Gabriele è la terza giornata consecutiva che ne caniamo una. Quindi abbi pazienza, il virus a noi ci ha preso il cervello, evidentemente. E la scaletta. Ma niente di male, stavo scherzando. Buongiorno Mauro. Buongiorno Deborah, un salutone a tutti gli ascoltatori, eccoci, che sono collegati. Allora, direttore, possiamo spiegare come... Dunque, diciamo innanzitutto il punto normativo della vicenda. La materia dei rimborsi per i viaggi, dei voucher, eccetera, eccetera, adesso lei ce la spiega per bene, ha trovato diciamo pace con la conversione in legge del decreto legge cosiddetto Cura Italia. Quindi adesso abbiamo tutto un lungo articolo, e ho qui proprio la stampata e la Gazzetta Ufficiale, si tratta dell'articolo 88 bis, se non mi sono sbagliato, che diciamo disciplina tutta questa materia dei viaggi che non abbiamo potuto, non potremo, non potremmo fare di qui ai mesi a venire. Quindi la situazione adesso qual è? Se ho prenotato, se ho pagato, se non ho ancora pagato, se ho dato solo una parte, come ci stiamo regolando, dottor Milani? Sì, Mauro, esattamente. Allora, nel Cura Italia c'è questo articolo 88 bis che è un po' l'evoluzione di quello di cui avevamo commentato anche la trasmissione scorsa, parlando del decreto legge che doveva essere convertito e che parlava, che aveva introdotto i voucher e che era una norma che tutto sommato lasciava qualche interpretazione sul fatto che chi potesse scegliere il fatto di avere rimborso in denaro piuttosto che tramite un voucher e quant'altro. Direi che questo testo che è stato emanato con il Cura Italia copre tante delle domande che erano emerse anche la volta scorsa, perché in modo molto più chiaro intanto sancisce che la scelta è a carico dell'organizzatore, quindi l'articolo parla di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici. Se ci focalizziamo sui pacchetti turistici, quindi l'organizzatore può scegliere in caso di recesso o del viaggiatore, o addirittura può con le modifiche che sono state portate recedere lui dal contratto, può rimborsare tramite un voucher, può ripianificare il viaggio. Quindi questa è un'altra soluzione che io invito veramente a chi si trova in questa situazione a prendere seriamente in esame, nel senso che c'è possibilità di già riprogrammare un viaggio, magari soprattutto se viene scelto un periodo il prossimo anno, o comunque più tranquillo, insomma, dove ci sono maggiori sicurezze di potersi muovere, oppure può rimborsarlo in denaro. Però è una scelta dell'organizzatore, e questo è stato chiarito in modo molto netto. L'emissione del voucher è previsto che venga emessa al più tardi entro 60 giorni dalla data che era prevista del viaggio, e anche questa è un'ulteriore novità, perché prima erano previsti solo 14 giorni, invece ora viene dato più tempo per mettere il voucher. L'altra cosa ancora che è emersa è di anche pianificare su quale periodo poter fare queste cose, quindi è stato introdotto un infatti comma per che... punto è proprio questo, perché qua ovviamente noi siamo tutti ottimisti, no? Come dire, con il pensiero di poter in qualche maniera tornare ad una normalità, ritornare a viaggiare magari senza fare chissà quale tipologia di viaggio, ma anche volendoci muovere sul territorio nazionale. Gabriele, è chiaro che molte persone sono come dire un po' titubanti nel capire se accettare o meno questo voucher, dipende da quanta disponibilità temporale offre. Certo, credo. Allora, diciamo che intanto è stato previsto che può essere applicato su tutti i contratti che hanno effetto dall'11 marzo al 30 settembre, perché l'altro limite della norma precedente era che sembrava che ne so, in base di PCM che uscivano di settimana in settimana, dopo il 3 aprile tutto il mondo tornasse a viaggiare, quando sapevamo già che tutto ciò non era possibile. Quindi viene dato un respiro più ampio al fatto di dire congeliamo la situazione in attesa che si capisca veramente che come ci si può muovere, dove ci si può muovere e con quali criteri di sicurezza. Per cui tanto viene consentito di muoversi anche da un punto di vista legale con un respiro temporale più ampio. Infine, l'ultima precisazione che faccio, è stato scritto in modo anche qui inequivocabile che non è prevista accettazione da parte del destinatario, quindi il voucher assolve gli obblighi di rimborso e non è prevista accettazione del destinatario. Per tornare anche all'osservazione che facevi tu, Deborah, su quale periodo temporale, dunque si parla di 12 mesi e qui è un po' il primo punto, no? Perché alcune persone si domandano, bene, ma una volta scaduti i 12 mesi che succede? Allora, qui non c'è la volontà da parte di nessuno di fare tutto questo per trattenersi dei soldi dei viaggiatori, che sono il patrimonio delle aziende. Questo che lo sappiamo, Gabriele, siamo con voi perché siamo assolutamente certi che stiate agendo con la totale professionalità, e naturalmente ricordiamo che voi prima di tutti siete i danneggiati da questa situazione, quindi chiuso la parentesi, perché come tante altre categorie che vengono ritenute responsabili di voler trattenere chissà quale denaro, è chiaro che tutti sono in ginocchio in questo momento, quindi cercano solamente di capire come mandare avanti anche la propria attività, quindi non è trattenere come dire, soldi di altri, ma è trattenere della liquidità che consenta di mandare avanti l'attività per risolvere tutti i problemi. Chiusa esatto. Parentesi, Gabriele. Quindi direi che la norma oggi fa riferimento a 12 mesi, già gli operatori, anche i principali operatori della filiera del film organizzato hanno già iniziato, la maggior parte di loro, a dire che la scadenza viene posticipata al 31 ottobre, ad esempio, del 2021. Quindi c'è già un'azione di maggior favore nei confronti del viaggiatore, per dire: guarda, non sono 12 mesi, la scadenza poniamola pure al 31 ottobre del prossimo anno. Quindi tanti grandi organizzatori si stanno muovendo in questa direzione. L'altra cosa, io invito sempre, ad esempio, a parlare con il proprio agente di viaggio, che è un po' il consulente, che si fa anche la portavoce delle richieste del cliente, per vedere, rispetto a quello che dice la norma, che comunque non dice tutto, perché ad esempio non dice se il voucher è cedibile, non dice se è frazionabile. Io dico sempre però di provare a parlare con chi ha organizzato quel viaggio, perché se l'intenzione di tutti è quello di averlo semplicemente rimandato più avanti in un momento in cui ci saranno le condizioni, c'è tanta disponibilità da parte di chi fa questo di mestiere di andare incontro, a come si fa sempre, alle esigenze e alle richieste del cliente. Per cui sulla frazionabilità, ancora una volta, già tanti organizzatori lo stanno facendo, è molto relativo anche al tipo di viaggio che si è prenotato. Faccio un esempio semplice: se uno ha prenotato un viaggio veramente su misura su una particolare destinazione, costruito in modo specifico per il singolo cliente, in quel caso averlo modificabile su tutta un'altra tipologia di viaggio diventa difficile per quell'organizzatore che magari gestisce solo un paese, una destinazione o quella tipologia di esperienza. Per cui è un po' anche relativo al tipo di viaggio che si è prenotato. Sulla cedibilità, quello che si dovrebbe evitare è che ci sia un po' un mercato dei voucher, da una libertà totale di cedibilità emerga un mercato dei voucher che non si vorrebbe. Quindi ancora una volta gli organizzatori dicono: sottoponimi alla tua necessità e in modo mirato, sulla base di quello che mi dici, cerco di venirti incontro il più possibile. Allora vi devo fermare entrambi per qualche minuto, anche meno, perché tutto ciò premesso, il traffico. Due di denari. Allora, riassumo velocemente. Io ho fatto la domanda il 2, è sempre in attesa di esito. Ho cambiato l'IBAN perché temevo che ci fosse il l'IBAN sbagliato. L'altro ieri l'INPS mi ha mandato una comunicazione dicendo che hanno modificato l'IBAN e che stanno verificando se è veramente il mio IBAN. Questo in 40 giorni. Però con milioni di richieste che sono arrivate all'INPS. Tra l'altro, Mauro, magari puoi anche spiegarlo tu, perché credo che questo tu l'hai verificato direttamente. Chi ha fatto la domanda proprio la famosa notte tra l'1 e il 2 aprile è probabilmente appartenente alla fetta di popolazione che ha maggiori difficoltà, no? A vedersi registrato. Allora, non possiamo ovviamente estendere con un criterio statistico quanto riceviamo qui, però posso dire che possiamo dire, Debora, che effettivamente ci scrive più di un ascoltatore, e dico più d'uno in senso eufemistico, più d'uno per dire: ho domanda dell'1 aprile, prime ore del 1 aprile oppure del 2 aprile e ancora non ho visto nulla, non so che fine abbia fatto la mia domanda. Allora, io sospetto che ci sia stato un po' di difficoltà proprio nella fase di avvio e meno magari nei giorni successivi, ci viene. Però, per carità, siamo qui per spiegare, accogliere le vostre segnalazioni e anche le repliche dell'Istituto Nazionale, ci mancherebbe altro. Assolutamente. Leggo solo l'ultimo messaggio, perché è una testimonianza che ci arriva alla mail, perché in questo momento, mentre tu guardi guardi WhatsApp, io controllo le mail che ci arrivano a duedidenari@radio24.it. Testimonianza di un ascoltatore che peraltro poi ne ha mandate due o tre. Ho diversi amici che hanno chiesto i 600 euro, si lamentavano di non averli ricevuti ancora. Confrontandoci abbiamo scoperto che A, non sapevano quali fossero i requisiti, abbiamo verificato che non avevano i requisiti, continuano comunque ancora a lamentarsi. Purtroppo la situazione è anche questa. Mauro? La situazione è molto varia. Allora andiamo invece sulla questione dei viaggi. C'è tra l'altro Carlo che ci ha chiamato da Busnago, che è in provincia di Monza Brianza, e gli diamo subito la parola. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi, buona giornata. Io chiamavo perché, appunto, come avevo detto ai vostri operatori, ho prenotato un viaggio vacanza, anzi un viaggio studio, per far fare la quarta superiore a mia figlia negli Stati Uniti. È un viaggio che, un pacchetto consistente, insomma, mi costa circa 11.000 euro. Ho già versato, quindi insomma un bel impegno economico, ho già versato 7.000 euro di acconto e ho ricevuto una richiesta da parte dell'agenzia di saldare il resto, perché a dire loro non ci sono problemi. Ma quando avverrebbe questo viaggio, mi scusi? Avverrebbe da fine di quest'anno scolastico, quindi partenze previste tra luglio e settembre del 2020, quindi fra pochi mesi, insomma. Certo, quindi non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere, insomma. Cioè, potrebbe essere che vengano meno le limitazioni, ma potrebbe anche essere che non è così, che non sarà così. E questo è un po' Io sarei ben felice, insomma, se ci fossero le condizioni per garantire l'anno all'estero in sicurezza, insomma, ovviamente con i dovuti accorgimenti necessari, perché sappiamo quello che è avvenuto, però insomma, se è possibile, vuol dire, e ce ne sono le condizioni, io sono ben felice. La cosa che mi ha dato fastidio è stato quello di chiedere con tempo massimo 7 giorni di versare il saldo, perché arriverò. Certo. Quindi questo mi ha un attimino dato fastidio, anche perché attualmente io ho controllato il sito del Ministero degli Esteri, Viaggiare Sicuri, e vige il divieto d'ingresso dal 17 di aprile da parte del Presidente Trump. Quindi... Dove deve andare esattamente Carlo, sua figlia? Dove, negli Stati Uniti? Dove la manda? Va vicino a Chicago, però siamo nello stato dell'Indiana. Guardi, tra l'altro un paesino fantastico, perché siamo già stati in contatto con la famiglia che la ospiterebbe, quindi veramente sarebbe una grandissima. Un peccato perdere questa occasione, però sentiamo certo. Un po'. Sentiamo allora il direttore Gabriele Milani. A proposito di siti, dottor Milani, ftoitalia.it, ci sono tutte le normative, tutte le questioni. Federazione Turismo Organizzato è il sito dove trovate le normative. Esatto, dove stiamo caricando la normativa delle domande e risposte più frequenti e soprattutto rivolto alle agenzie di viaggi e ai tour operator, quindi il nostro sito è un po' un sito B2B, però lì chiunque può trovare sicuramente la normativa che è caricabile. Cosa rispondiamo a Carlo che dice: che faccio qui luglio, chi lo sa se a luglio mia figlia potrà andare negli Stati Uniti, pago? Perché la cifra, ha sentito, non è proprio di quelle che si trovano così in tasca. Sì, queste sono quelle situazioni, Claudio, capisco, limite, in cui c'è un contratto di viaggio con delle scadenze di pagamento. Quello che dico è che di solito gli operatori non si trattengono i soldi, nel senso che non sono loro, devono pagare i fornitori, devono pagare le controparti, quindi se c'è una richiesta in tal senso, al di là di quanto c'è scritto nel contratto, bisogna vedere anche rispetto alle terze parti che cosa sta succedendo, che cosa stanno pretendendo e che condizioni ci sono. Io in queste situazioni continuo a invitare a provarsi a parlare il più possibile, per vedere a mano che la situazione, che è molto fluida, nel senso che cambia di giorno in giorno, può cambiare di giorno in giorno, e vedere che cosa succede e cercare di trovare una soluzione insieme. Questo è il consiglio che mi sento di dare per uscirne, insomma, sperando che poi a quella data in cui dovrebbe partire sua figlia ci siano le condizioni per farlo. Abbia pazienza, normativa attuale, mettiamo, Carlo salda, decide di saldare perché il viaggio, insomma, è molto importante anche per la parte formativa che è contenuta nel viaggio, e però poi si arriva a tutto settembre, speriamo di no, e negli Stati Uniti non si può andare. Che succede? Ha diritto al rimborso integrale? Diventerà un voucher? Come ci si regola? Ancora una volta l'organizzatore potrà scegliere se rimborsare cash la cifra, se mettere un voucher o se provare a modificarlo in un altro pacchetto di viaggio successivo. Ma questo non è un viaggio tradizionale, però ha una finalità di studio infatti, quindi magari o può saldare adesso faccio io così un po' l'esperta, Mauro, e sì, magari però pattuire una condizione, sì, va bene, io te lo saldo, ma mettiamo nero su bianco anche un po' una condizione dettagliata rispetto a come si evolverà la situazione, perché se poi a luglio, noi speriamo che naturalmente la situazione migliori nettamente, ma qua sappiamo benissimo che andrà tutto migliorando con grande lentezza, con grande calma, quindi non è detto che la figlia di Carlo possa partire, mettiamo nero su bianco delle ulteriori condizioni su come disciplinare la situazione nel caso in questa esperienza di questa ragazza salti completamente. Non lo so che cosa altro può aggiungere. Sentiamo cosa ne dice il direttore, magari potresti avere un futuro anche nella federazione. Sì, certo, ci manca anche quello. Milani Gabriele, puoi capire con verificherei anche con chi organizza questo viaggio se ci sono mete alternative anche rispetto agli Stati Uniti, nel senso che inizierei a valutare veramente con molta flessibilità anche eventuali alternative, nel senso che purtroppo ad oggi nessuno ha una sfera di cristallo per dire cosa potrà succedere, non sappiamo nemmeno se ci possiamo muovere tra regioni italiane ancora e quando potremo riaprire le attività. Ecco, ci tengo anche a sottolineare questo, stiamo vivendo in un periodo anche di lockdown delle singole imprese, per cui con un impegno a contenere i costi, quindi tenendo a casa i propri collaboratori, le agenzie hanno fatto sforzi straordinari per riportare turisti da tutto il mondo, riportarli sani e saldi in Italia a proprie spese, quindi io direi, insomma, il mio invito in queste situazioni prima di rivolgersi a un legale che direi che è una strada dispendiosa e che secondo me deve essere veramente presa in considerazione per ultima, l'invito è veramente a parlare con chi ha organizzato il viaggio e trovare una soluzione insieme. Ma se appunto lei ha evocato anche lo stato di crisi, giustamente, perché i tour operator in questo momento stanno in gravissima difficoltà, se sciaguratamente l'agenzia alla quale ci si è rivolti non riaprisse perché non ha potuto reggere l'urto appunto della pandemia, uno avesse già prenotato, pagato eccetera, come può tutelarsi, dottor Milani? Allora direi che intanto queste misure qui sono state messe in campo proprio per evitare questo scenario, no? Nel senso di dire cosa succede, di avere un'uscita straordinaria di soldi tutti contemporaneamente che non sarebbero stati, sarebbe stato possibile perché, ripeto, i fornitori sono stati già pagati, normalmente l'agenzia o il tour operator ha già comunque impegnato quei soldi con terze parti, quindi questo non dovrebbe succedere. L'altra cosa, bisogna vedere chi è l'organizzatore, nel senso se l'agenzia è intermediaria oppure se c'è un organizzatore dietro, per cui verificare ancora una volta quei soldi se sono arrivati al tour operator, quindi all'organizzatore, e in quel caso comunque si è protetti da chi sta organizzando il viaggio. Ultima, bisogna vedere le protezioni che ci sono collegate, nel senso che ci sono delle assicurazioni, dei fondi di garanzia, e bisogna verificare se questi voucher sono onorati da questi fondi di garanzia. È un tema anche di cui si sta parlando anche a livello italiano e a livello europeo di questo quindi, specifico. Calma per tutti. Mauro, volevo leggere l'ultimo messaggio di Monica che mi sta molto a cuore, perché poverina ha dovuto rimandare il suo matrimonio di un anno e il suo viaggio di nozze, doveva farlo a luglio, New York e Caraibi. Allora, cosa succede al mio viaggio? Secondo me anche in questo caso, un po' come abbiamo detto fino a questo momento, speriamo che il matrimonio lo faccia l'anno prossimo, io credo che può parlare con il suo intermediario di viaggio, il suo consulente di viaggio, e chiedere se può spostare tutto, naturalmente sperando che possa godersi il matrimonio, il marito e soprattutto il viaggio di nozze che fa in posti meravigliosi. Che ne dite? Possiamo suggerire di fare così a Monica? Sì, esatto, io l'invito a fare a Monica di proprio di riprogrammarlo direttamente, così si tiene stretta il futuro marito. Esatto. E quindi già fissare la nuova anche... data. Ah, lei dice il prossimo anno. Ma però se anche colgo... il marito ci ripensasse, può sempre andare a New York e Caraibi da sola, perché già... Ah, ecco, vedi, Deborah, se vuole ci vado io con lei. Ti hai compreso, perché magari poi il futuro marito ci ripensa, c'è un anno e chi lo sa, e lì non c'è né voucher né rimborso, viene da dire. Allora, un'ultima cosa di cui volevo chiederle conferma, perché ce la chiedono in tanti. Allora, il cliente può rifiutare il voucher e pretendere il rimborso? Mi pare di capire che nell'88 bis si dica, no, se l'agenzia ti dà il voucher, non c'è una trattativa, me lo conferma Milani. No, è una scelta, sì, assolutamente, scritto, questo è veramente stato scritto in modo chiaro, la scelta è dell'organizzatore, quindi non del viaggiatore. Non si apre in questo caso una trattativa, quello che si può trattare è quello che ci consigliava lei, cioè il caso in cui si debba magari riprogrammare un viaggio come quello appunto di Monica, che è un viaggio molto particolare, un viaggio di nozze con diverse tappe, mi immagino. Allora, grazie al direttore, per ora ancora direttore, ma chissà, magari il nostro è un augurio, Gabriele Milani, direttore della Federazione del Turismo Organizzato. Cara Deborah, io lunedì mi prendo una giornata di stacco, ma sarò ugualmente con te, vedrai. Lo so, anzi, lo sentirai. So, perché io non posso lasciarti completamente, quindi un pezzettino di te deve esserci lunedì a Due di Denari. Puntata speciale nella quale racconteremo a tutti gli ascoltatori, come ci hanno chiesto, come funzionerà il prossimo BTP Italia. E buona domenica. Buona domenica a tutti.